dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La mia squadra non deve pensare negli ultimi anni Barcellona quando è partita sbagliata. Noi dobbiamo affrontare il Barcellona con la consapevolezza che è una squadra forte, che è una squadra di marziani, che dobbiamo fare la partita della vita per riuscire a portare a casa un risultato importante. Che sensazioni ha sul Lione? Di grande rispetto, ma anche di grande consapevolezza dei nostri mezzi. Arrivano gli appuntamenti per i quali si ritrovano dall'estate, la preparazione estiva, la prima fase del campionato, adesso queste partite, l'Inter domenica, gli ottavi di finale di Champions, sono le partite per le quali questi giocatori vogliono giocare. Sono sereno. Cercheremo di preparare bene la partita, poi al di là chi va in gol, ma bisogna vincere, anche se segno spina, e dobbiamo fare risultati e basta. Dobbiamo fare risultati e basta. Noi non dobbiamo commettere un errore, noi giochiamo contro il Barcellona e non è solo Messi. E pensare oggi di mettere un uomo addosso a Messi non si risolve nulla. Buon pomeriggio a tutti, Edoardo Ravezzare e Gianmarco Ferronato, oggi al di là del vetro, mentre collegati Pierluigi Pardo da Napoli. Non so se ti sei unito ai cori permessi dei tifosi napoletani. Ci sono cori permessi? A favore, il grande sogno, no? La grande suggestione, Messi a casa di Maradona, fin ma troppo. Dove sono venuti? Non lo so, poi ti do le opportune informazioni. Nel caso applausi, perché comunque insomma è una celebrazione del calcio, sì, della sì. Bellezza del calcio a prescindere dalla rivalità, quindi condivideremmo. Ciao Paolo Condò, grazie. Ciao Carlo, ciao Pier, ciao a tutti. Champions Serie Champions, viaggio zaino in spalla per grosso modo per il Napoli verso dove non si sa, mentre core business per la Juventus, che le potenziali 7 partite che restano verserà tutto il senso della sua stagione, Paolo. Sì, per la Juve certamente, credo che ancora questo ostacolo dei quarti di finale non sia altissimo, vedremo domani sera e poi comincia il vero ballo, ma insomma diciamo che da oggi sei nel foyer del grande teatro, da domani. Per il Napoli è un'eliminazione diretta di bellezza e difficoltà capitale, ovviamente, perché si trova di fronte il Barcellona, si trova di fronte soprattutto Leo Messi. In questi anni abbiamo molte volte visto coincidere le due cose a livello terribile. Al momento mi sembra che Messi sia molto più spaventoso del Barcellona, come avversario diretto, perché appunto Barcellona sta vivendo una stagione un po' così piena di problemi, mi sembra. Uno dei temi è questo. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate entrambi, perché Barcellona è pieno di problemi, dalle relazioni interne con dei giocatori, con il club, da mille cose che conosciamo, al campo dove si sta riverberando tutta questa fase di incertezza. A me sembra un po' una stagione da fine impero. Poi pensi così e Messi ne inchioda 3 nell'ultima partita contro nell'ultima partita contro l'Eibar. Ora mi piacerebbe sapere che significato ha tutto questo, cioè se questi 4 gol di Messi a un allenatore che peraltro è la sua vittima preferita è il segno del giocatore che sta entrando nel tunnel che conta, oppure se può essere un lampo nel buio. Allora io penso questo, a parte che c'è Ciro Ferrara che adesso sta arrivando lo Scarpariello, ha un'incredibile voglia di parlare, proprio c'è proprio voglia di esternare, perché adesso arriva lo Scarpariello e quindi a parte le battute. Io penso che Barcellona in realtà nell'ultimo periodo sia meno in crisi di quello che è stato detto, cioè il Barcellona ha mille problemi dal punto di vista extra calcio, perché comunque quello che è successo con Bartomeu, la riunione con i capitani dell'altro giorno, insomma non sono cose belle, quindi il clima alla fine impero è ci può stare, no, come ragionamento. Poi in realtà, se guardiamo l'ultimo mese del Barcellona, ci sono 4 vittorie consecutive. Il Barcellona perde incredibilmente la Supercoppa di Spagna in rimonta con l'Atletico Madrid. Poi comunque, insomma, si sistemano le cose. In questo momento è addirittura in testa la Liga, quindi la sensazione è che comunque negli ultimi giorni, nelle ultime uscite, abbia reagito. Detto questo, poi la storia recente del Barcellona è una storia soprattutto in trasferta in Europa non così brillante, o comunque che lascia spazio a delle possibilità, ed è chiaro altresì, mi piaceva dire questa cosa, altresì è chiaro altresì che il peso di Messi e la prestazione di Messi insomma è abbastanza decisiva. Cioè, se il Napoli riesce a imbrigliare Messi, se Messi fa un'altra brutta giornata, come non succede spesso, le cose sono nettamente più semplici. Certo, però tu come lo leggi il momento del Barça, Paolo? Perché secondo me va letto anche tenendo conto dei grandi difficoltà del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, che sta vivendo una stagione non facile. Se vuoi allargo anche il discorso, perché pure il City sta vivendo una stagione interna molto deludente. Quanto all'Europa vediamo, perché secondo me ha molto la faccia da Europa in questa stagione. Paris Saint-Germain, mille guai, anche lì interni e esterni di ogni natura. Il Liverpool che deve rimontare sul campo di Atletico Madrid, dopo aver perso sul campo di Atletico Madrid. Tu l'altro giorno hai scritto, io condivido, che il Liverpool con quella stagione sta facendo è un po' il parametro di questa Champions, il termometro di questa Champions. Sì, io continuo a considerare il favorito, anche se non sarà semplice rimontare quel gol. Io non pensavo che perdesse al Wanda Metropolitano. Però se torniamo un attimo al Barcellona e mi dai 30 secondi, sì, volevo inquadrarlo un po' dal punto di vista storico questo momento del Barcellona. E cioè, c'è stato a cavallo degli anni 10, si era creata la situazione perfetta, quella con la Porta presidente, Guardiola allenatore, Messi giovane star che aveva oscurato rapidamente Ronaldinho, e un gruppo di giocatori spagnoli o molto più frequentemente catalani. Parlo di Puyol, parlo di Xavi, parlo di Iniesta, parlo di David Villa, insomma tutta una serie di giocatori pazzeschi, Pedro, Busquets, pazzeschi. E quella secondo me è una cosa irripetibile, è una cosa che si è conclusa, diciamo, nel momento in cui Guardiola è andato via, il presidente Laporta è cambiato, è venuto Rosell, che era di tutt'altra pasta, come abbiamo anche visto dal punto di vista giudiziario. C'è stata la tragedia di Tito Villanova, che certo poteva essere il grande continuatore e aveva iniziato a essere il grande continuatore dell'opera di Guardiola. Da lì in poi è cambiato frequentemente proprio il DNA del Barcellona. Io lo ricordo all'epoca giocare alcune partite con 11 giocatori cresciuti nel vivaio, cosa mai vista prima a questi livelli, ecco. E poi nella finale che loro vincono sulla Juventus con Luis Enrique, ecco, l'attacco è un valore secondo me mai più replicato, anche sì, dal punto di vista economico, Messi, Suarez, Neymar. Ecco, ha cambiato completamente pelle, Bartomeu è subentrato a Rosell dopo i suoi guai giudiziari, ma sostanzialmente ne ha ricalcato il tipo di gestione basata su grandi acquisti e non più su produzione. Adesso, se non ci fosse stato Messi, Barcellona sarebbe entrato in crisi già da molti anni. La verità è questa. Complice anche il fatto che c'è stato un mercato inesistente a gennaio, hanno perso Suarez ovviamente per infortunio. Ma questa è una delle grandi polemiche tra Messi e il club. Detto che anche loro devono stare un po' attenti al bilancio, perché non è che possono comprare, hanno già fatto abbastanza in questi anni. Messi non voleva Griezmann, ma voleva Neymar, ecco, per dire. Insomma, Griezmann è un grande acquisto, è stato ovviamente la scorsa estate. Però Messi, per carità, i due ora convivono, Messi pensa al bene della squadra, però non c'è tutto quel trasporto di grande simpatia. No, Griezmann non è stato iscritto alla famosa chat rioplatense, quella che Messi aveva con Suarez e con Neymar. Ecco, e quindi naturalmente sì, secondo me siamo a fine impero. Questo è un impero che durerà finché ci sarà Messi, naturalmente, perché finché ci sarà Messi avremo un grande correttore di tutte le situazioni negative. Quindi quanto può contare il Barça al tavolo di questa Champions? Io non lo vedo tra i principali favoriti, ma quello che vedo io ha poca importanza. Lo ha detto lo stesso Messi, ha detto: al momento noi non siamo assolutamente competitivi per vincere la Champions. L'anno scorso erano più forti e sono usciti in semifinale, sappiamo come. Ecco, è chiaro che il Napoli si deve inserire dentro questo discorso, deve trovare il suo sentiero e aprire, trasformare un sentiero in autostrada, se possibile, dentro questo discorso di una squadra che al momento, da una parte, è anche squassata da questi problemi interni. Secondo me Bartomeu, se fosse un po' responsabile, dovrebbe dire fin da adesso: ok, la prossima estate anticipiamo le elezioni di un anno, e così riparte un intero ciclo, perché lui confida, e su questo ha ragione, credo, lui confida sul fatto che comunque Messi non andrà mai via da Barcellona. Ecco, è forte, perché se perdesse Messi dovrebbe correre, correrebbero dietro col forcone. Ne sei sicuro anche tu? In tutta la Catalogna, sicuro, siamo di poche cose nella vita. Però questa è una, cioè, sarei sorpreso, sorpreso se io penso che oggi il Barcellona sia una meravigliosa squadra di calcio, una competitivissima squadra di calcio, ma non sia più la cosa che era qualche anno fa. Il Barcellona era realmente un unicum, era un prodotto filosoficamente, tatticamente, programmaticamente unico rispetto a tutte le altre. Era veramente la squadra della cantera, del vivaio, era la squadra che fin dalle prime squadre della cantera, quindi fin dai più piccoli, giocava in una certa maniera. Era un Ajax 2.0, se vuoi anche un Milan 2.0, cioè rappresentava uno di quei punti di svolta della storia del calcio, dove indipendentemente dal fatto che poi tu alla fine della stagione vinca o non vinca la Champions League, però sei un modello, sei un punto di riferimento, sei un'università. Sì, una stagione epocale, una squadra epocale. Oggi Barcellona è diventata una squadra normale da questo punto di vista, è diventata una squadra molto più simile al Real Madrid, molto più simile alle altre, una società che fa degli investimenti monster, che delle volte li sbaglia pure, perché sicuramente dopo la cessione di Neymar per 222 milioni il Barcellona ha commesso degli errori. Tutti sapevano che aveva i soldi e tutti in quel momento che aveva i soldi e che doveva comprare. E certamente, insomma, la coppiata in diversi casi li ha spesi male, appunto. Coutinho Dembélé li ha spesi molto male. Decisamente. Li ha spesi male, ma anche perché si è trovato in una situazione oggettiva di una società che ha cominciato a fare, che ha cominciato a essere galattica, cioè ha cominciato a comprare i giocatori top, a cifre top, con gli ingaggi top. Quindi ha perso quell'elemento di cui parlava Paolo, che è stato il tratto distintivo. Beh, si è un po' esaurita anche il filone aureo, Pier, perché poi Xavi e Iniesta, e cioè, possiamo continuare, non sono più usciti da quel vivaio, c'è stata anche un'inversione di politica. Pure lo United era una cosa finché c'erano Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Scholes, Keane, eccetera, eccetera, Beckham, e poi insomma e Ferguson. E adesso ancora lì a remare, buttando via anche in quel caso montagne di soldi, peraltro altro caso di denaro mal speso e di squadra che non è mai più tornata a quei livelli. Che partita ci aspettiamo, quella di stasera raccontata da Pardo? Perché Paolo, comunque, nonostante tutti i guai e tutte queste analisi sul Barcellona, leggi le risultanze di questa stagione e dici: vabbè, non andiamo neanche in campo. Tra l'altro il Napoli dovrà giocare una partita un po' contro natura per la squadra che, diciamo, è stata quindi... Ma sai, allora, il Napoli, ripeto, tutti noi abbiamo detto l'ovvietà, che il Barcellona è favorito, non è che tutti questi guai rendano favorito il Napoli. Tra l'altro anche il Napoli ne ha passati di un piccoli nel corso della stagione. Però ti dico che prima stavo preparando la trasmissione di stasera per Sky e quindi stavo fissando alcuni punti. Uno di questi è che il Napoli in questa stagione, che pure è stata disgraziata, ecco, ha battuto il Liverpool, campione d'Europa, al San Paolo, ha battuto la Juventus, ha battuto l'Inter e la Lazio in Coppa Italia. E quindi, voglio dire, contro le grandi avversarie il Napoli ha sempre funzionato più che egregiamente quest'anno, e perdendo in casa con Lecce e col Parma, che è arrivato in quella posizione. Ma poi tu sai perfettamente, ne parlavamo anche ieri con Andrea Agnelli, l'ha detto lui, ma è una cosa che conosci benissimo: le grandi squadre si accendono quasi improvvisamente e magicamente nelle grandi partite. Partite, certamente, ma anche per un motivo: uno è l'orgoglio, naturalmente, e poi è anche quello di mettersi sul mercato. Sì, perché se il giocatore che sa che l'anno prossimo comunque lascerà Napoli, ecco, sa perfettamente che tutta Europa guarderà Napoli-Barcellona, e quindi se deve strappare un certo ingaggio, Se la mette veramente questione tutta, di marketing, sì, è umano, no, tutto, oltre a tutto questo che è assolutamente vero, le grandi partite europee sono partite fra pari grado, cioè come la box i pesi massimi, cioè non puoi pensare, può succedere per carità, ma insomma è un caso assolutamente residuale, ma non puoi scendere in campo in una sfida di 180 minuti in Champions League per speculare, per vivere di episodi. Puoi farlo, secondo me, se sei una buona squadra in un campionato. Sei una buona squadra tecnicamente in un buon campionato, puoi cavartela e puoi portare a casa un discreto risultato con un po' di organizzazione, con la capacità dei singoli. Ma poi vedi perché spesso gli exit poll che arrivano dal campionato valgono relativamente, ad esempio ti aspetti per questo, certo. Perché è un altro sport, perché tu puoi essere una buona squadra in campionato ma non avere poi la forza quando devi affrontare le grandi, quando devi fare veramente la partita, o viceversa, puoi essere una squadra magari in campionato, ce ne sono state tante, il Milan che ha vinto nel 2007 la Champions League si accese dai quarti di finale contro il Bayern, chiaro, e poi chiaro. Era una squadra in campionato che faticava tantissimo perché non aveva forse più l'energia e la benzina per potersi impegnare 38 volte su 38, lo dico con rispetto, contro il Chievo o contro, non lo so chi c'era in quegli anni, o contro il Siena, però poi invece nelle grandi partite era in grado di tirar fuori la prestazione. Questo Napoli onestamente questa sensazione l'ha data con l'impresa contro il Liverpool d'inizio anno, ma anche l'impresa forse per certi versi ancora più significativa del ritorno, perché non perdere ad Anfield in un momento in cui c'era scoppiato tutto il casino delle multe con tutte le difficoltà che c'erano è stata secondo me una grande prestazione, una grande prova di maturità. Quindi io mi aspetto una lo spero, certo, c'è anche diciamo l'ottimismo della volontà oltre a quello della ragione, mi aspetto un Napoli competitivo. Poi è ovvio che il Barcellona nelle due partite, soprattutto con il ritorno in Catalogna, insomma è chiaro che ha a favore del pronostico, abbiamo una però, favorita chiara, questo è evidente, no, e soprattutto ne parlavo ieri con il mitico Giorgio De Luca lì a via Monterosa, tifoso del Napoli. La paura è che tutti i problemi del Barcellona che ci sono stati abbiano un pochino riacceso l'attenzione, cioè se noi guardiamo le clamorose debacle del Barcellona negli ultimi anni, quindi quella l'anno scorso 4-0 al ritorno contro il Liverpool, quella contro la Roma, stanti ovviamente i meriti delle rispettive squadre, il famoso 4-0 del Paris Saint-Germain prima della remontata, ecco, erano tutte arrivate così in maniera un po' sorprendente, no? Come se il Barcellona improvvisamente si fosse trovato di fronte a un plot, di fronte si a un canovaccio che non immaginava. Sì. Adesso la sensazione è che c'è stato talmente tanto casino nel Barcellona negli ultimi tempi che è difficile pensare che non scendano in campo con un livello di concentrazione ottimale. Io sono anche curioso di proiettare questo discorso sulla Juventus, perché se valutiamo gli exit poll del campionato, Paolo, la Juventus arriva al momento in cui entra nella sua guerra sportiva vera, nella sua battaglia sportiva vera, quella per la Champions, non benissimo, però vale sempre questo fattore, cioè le grandi squadre, i grandi campioni, pam, al momento improvvisamente si possono accendere. Non benissimo nelle prime classifiche in campionato. Uh-huh. Tu dici non benissimo perché ti aspettavi che Sarri avrebbe portato il gioco dominante che c'era a Napoli, che invece non si è visto. Perché se non ci fosse stata questo tipo di aspettativa, ora diresti business as usual. Uh-huh. Juventus prima in classifica, qualificata molto bene, devo dire, un solo pareggio e 5 vittorie per gli ottavi di Champions, che va in campo da favorita. Ti ripeto quello che ho scritto stamattina, cioè ormai è finito il tempo del chiederci se Sarri gioca meglio o peggio, è più divertente o meno divertente. È finito il periodo di sperimentazione. Ecco, siamo arrivati alle gare che decideranno del fallimento tutto, o del successo, chiaro. Della sua esperienza juventina. Ecco, mi piace segnalare di positivo in questi mesi il fatto che probabilmente si è convinto che la coppia Ronaldo Dybala sia il vero plusvalore, plusvalore non plusvalenza, il vero plusvalore della Juventus, e quindi lui debba organizzare una squadra con altri 9 giocatori che possono supportare il suo due fuori classe. Senti Paolo, io ieri l'ho chiesto anche al presidente Agnelli che giustamente, insomma, dal suo punto di vista ha detto che i conti li farà alla fine, ed è giusto ed è molto saggio, perché veramente qualsiasi dichiarazione avrebbe aumentato una pressione e quindi certo, avrebbe agevolato il lavoro. Però onestamente la tendenza dell'ultimo mese è quella la cosa, secondo me, che non convince della Juve. Cioè che la Juve abbia giocato un girone di Champions League praticamente perfetto è indiscutibile. Che sia in terza alla classifica pure, e che tutto sommato a 13 giornate dalla fine essere avanti di uno non è una cattiva situazione, questo è evidente. Però è vero pure che nell'ultimo mese e mezzo la Juve si è fatta rimontare 7 punti dalla Lazio. È vero che a Napoli, dopo il pareggio dell'Inter contro il Cagliari, sembrava l'occasione perfetta per allungare, e quella partita è stata giocata male. A Verona quella partita è stata giocata male, e cioè, nonostante la Juve era avanti 1-0 e la poteva gestire con un po' di attenzione in più, e, insomma, chi conosce la Juve negli ultimi anni difficilmente poteva immaginare una cosa di quel tipo. Io ti devo dire, se c'è una cosa che mi aspettavo di più, allora qualche sconfitta secondo me andava messa in conto ed è arrivata. La cosa che mi fa strano di questa Juventus è che, a differenza di tutte le altre grandi europee, non c'è mai un 5-0, un 6-1, non c'è mai una dimostrazione di forza. Che poi è quello che i tifosi della Juventus chiedevano. Che si abbatte sulle avversarie. Sono tutto il famoso corto muso di Allegri. Sembra essere diventata, ogni tanto Allegri si concedeva la goleada, invece sembra essere diventata proprio la regola. Se tu vai a vedere anche con squadre che hanno 1 milione di punti in meno in classifica, che tu mi dirai sì, non conta, sì, vabbè, una volta non conta, non è che non può non contare mai. Questo fatto, ecco, 1-0, 2-0, questo era anche forse il motivo per cui era stato preso Sarri, no? Proprio sì, per divertirsi un po' di più anche numericamente, e questo non è arrivato. Invece, difatti, la Juventus è nettamente indietro nella classifica dei gol. Certo. Dei gol segnati. Sì. Sono tutti quanti, tutti in Italia, voi sapete che da questo punto di vista io sono molto più europeo. Ecco, sono tutti quanti che si preoccupano del fatto che la Juventus prende più gol rispetto al passato. Io questo un po' me l'aspettavo, però mi aspettavo che la Juventus ne facesse molti di più. Di gran lunga l'attacco migliore, invece non lo ha. Paolo, non posso lasciarti andare prima di affrontare rapidamente il dibattito di queste ore. Sul fronte interno prepariamoci a grandi polemiche che ci sono già più o meno sotterranee sulla chiusura degli stadi, di alcuni stadi, non di altri. C'è chi dice però per una ragione di equità dovevano chiuderli tutti, c'è chi dice fermiamo qualunque cosa. C'è chi dice va bene così, c'è chi dice ci atteniamo al piano, perché sono cose più grandi di noi del calcio e dello sport. E che è la mia posizione. Ci atteniamo al piano, lo devono decidere e anche la mia. Politici e scienziati. E anche la mia. Qui. Ad esempio, figurati, io non sono. Se esatto. Mi giro indietro su vantaggi, svantaggi, altre cose. No, ma assolutamente. Però c'è chi dice per ragioni di equità sportiva allora chiusi tutti gli stadi. Io non sono d'accordo, perché se c'è un problema da una parte, cioè si affronta quel problema emergenziale da una parte, che non è colpa di nessuno, perché non è che i virologi o gli immunologi o chi decide stia a pensare a questioni di tifo, ovviamente, tifo sportivo. E, sono d'accordo con te. E quindi dove si può si gioca in condizioni normali. Dove non si può purtroppo giocare in condizioni normali, non si gioca in condizioni normali. Poi c'è anche chi dice, vabbè, Juventus-Inter la vedranno in tutto il mondo, diamo l'immagine di un paese in cui che vive in una situazione da post-apocalisse. Mi pare che questo il mondo abbia già questa sensazione, a leggere le notizie in arrivo dai vari confini. Quindi la situazione accettiamo serenamente quella che è, evitando ogni tipo di polemica, questo senso? No, ma accettiamo ogni tipo di polemica, scusami Paolo, perché è l'unica cosa che possiamo fare ed è un po' un atto di fede. Poi è ovvio che alcune cose francamente si fanno fatica a capire, cioè l'idea che magari dei... Oggi, per dirti banalmente, qui in Napoli-Barcellona, io sono stato a Milano in queste ore, insomma, il fatto che facendo tutti gli scongiuri del mondo mi sento molto bene, però voglio dire, c'è gente stamattina che ha preso l'aereo da Milano per andare a Napoli, cioè da una città, e così c'erano sicuramente delle persone che sono da Milano l'altro giorno, anche dalle zone dell'Interland, magari vicino a dove c'è la zona rossa in questo momento, sono andati a vedere la Fiorentina. Cioè è ovvio che ci sono delle possibili incongruenze, così come ci sono delle incongruenze nel fatto di chiudere delle cose e non chiudere delle altre. Io abito a Milano sopra un mercato e stamattina tutto mi aspettavo meno che il mercato fosse aperto, invece il mercato in mezzo alla strada era aperto, e allora mi viene a dire lo stadio no, il mercato sì, cioè voglio dire, se vogliamo e siamo diciamo cintura nera da questo punto di vista di polemiche social, aprire il dibattito su tutto, possiamo farlo immediatamente perché è pieno di incongruenze, sì, anche legate alle tifoserie che si muovono e che non mi perdoni una cosa? Sì, certo. Tu, la premessa di questi tuoi discorsi su un'eccezione via l'altra è se vogliamo. Dal punto di vista mio non vogliamo e stop e si chiude il discorso. Esatto, no, sono d'accordo. Siccome so che siamo d'accordo, non lo diciamo nemmeno. C'è un'autorità, mi sembra che noi generalmente ce ne freghiamo dell'autorità, però qui in questo momento c'è qualcosa di più importante in ballo rispetto al solito e quindi io rispetto l'autorità. Chiedersi banalmente se i tifosi per esempio di quelle zone potranno andare a vedere da liberi cittadini le quattro partite che si giocheranno negli stadi pieni, credo che sia una domanda assolutamente logica e lecita, ripeto, nel rispetto assoluto, figurati. No, ma poi c'è anche il discorso delle scelte che sono state molti prese, tifosi juventini vanno a Lione e poi insomma è chiaro che se vogliamo cercare delle eccezioni alla regola possiamo trovare tutte quelle che vogliamo, però se io penso che se ritengano opportuno non far entrare le persone in certi stadi, che vuoi fare? Quest'anno è andata, adesso va così, punto. Non ci sono tantissimi, cioè ci possono fare un milione di distinguo, appunto, volendo. Ragazzi, grazie, ci sentiamo molto presto. Ciao, io ti sento stasera in telecronaca, naturalmente per Napoli-Barcellona, Borsa, ovvio, Bartur, altrettanto ovvio, subito dopo. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Che fa un no, è così carina, che fa un no, però se lei mi bacerà, io so che cambierà. Buongiorno ragazzi, Marino Bartoletti e Leo Turrini, buongiorno. Ma buongiorno, che bel regalo che ci ha fatto il direttore artistico, perché qualcuno prima di chiedersi cosa fa Leo sulla Pero Torcormano si chiederà perché il direttore artistico ha messo la bambolina che fa no. Me lo stavo chiedendo. Beh, intanto perché è la prima canzone che tutti noi abbiamo imparato alla chitarra, ti ricordi? Mi, la, re, la, mi, poi cambiava, c'era cioè, la, mi, re, la, mi, ma perché questa voce in plume che cantava nel gruppo dei Quelli poi diventati PSM è Teo Teocoli. Niente che meno. Oggi compie 75 anni in piedi. Sì, mi sono alzato in piedi anche di fronte al tuo post con cui oggi facevi gli auguri a Teo Teocoli, che è peraltro il tuo caro amico. Grande compagno di viaggio in 8 anni, indimenticabili di quelli del calcio, quando fece, ti ricordi, l'avvocato Prisco, Galliani, Albertini in mutande, Enrico Cuccia e poi Paolino. Sì, senza dimenticare i collegamenti da Napoli, con la cravatta. Che più mai dire gol. Cerchiamo di sorridere oggi in questi giorni di malinconia. Dai, proviamo. Sì, importante che non ci chiudano il Bar Tour, ma neanche la Pero Cormano. Che immagino non mi dica a Turrini che lei è in coda, perché oggi non ci credo. No, non c'è la coda. Io volevo dire una cosa, dato che la preoccupazione di tutti, la mia poi anche. Non sia particolare perché mio figlio è medico in ospedale, mio fratello è medico in ospedale, e ora lasciami citare Winston Churchill, che non era un mediano del Liverpool, quando disse per altre cose: mai così tanti hanno dovuto così tanto a così pochi. Ecco, io spero che presto posso pronunciare la stessa frase con riferimento a tutte le persone che lavorano negli ospedali. Detto questo, vorrei rivolgermi al mio interlocutore prediletto, il direttore. direttore artistico Marino Bartoletti, perché lui lo ricorderà certamente. Allora, nel 1958, è vero, io e Marino Bartoletti venimmo invitati da Salvo Randone, da Vittorio Gassman, no? Marino lo ricorderà, a vedere uno spettacolo, L'Otello, senza pubblico. Gassman faceva Otello, Randone faceva Iago, ogni sera si scambiavano le parti e furono fantastici anche quando si esibirono per noi senza platea. Allora, quello che io voglio sapere, ma domenica, senza spettatori, Ronaldo e Lukaku saranno all'altezza di Gassman e Randone? E vorrei che rispondesse per tutti noi Marino Bartoletti. Grazie Marino, ti voglio bene, un grande abbraccio. Detto che anche noi abbiamo cantato anche nei quelli che poi sarebbe diventata PSM, perché facevamo il coro della ragazza ti ricordi? Rispondo volentieri alla tua domanda e ti dico che io non riesco a immaginare quella partita senza il pubblico, sinceramente. Ne ho sentito parlare prima. Guarda, non so che immagine daremo al mondo, non vorrei che entrassimo in discorsi troppo seri, perché poi vedo che la cosa ti tocca più di quanto non tocchi tutti noi. Però stiamo dando veramente l'immagine di un paio di psicopatici, caro Carlo e caro Leo miei, perché abbiamo un Presidente del Consiglio in questo momento appena finito di litigare con un governatore, il quale gli ha detto invece di andare dalla D'Urso pensa alle nostre cose e non insultare i nostri infermieri, perché i supermercati sono saccheggiati. Ieri ho postato una cosa riportando un pezzo manzoniano che raccontava l'assedio ai forni, in fondo al quale Renzo dice: ma se distruggiamo i forni poi il pane dove lo facciamo? Sono un po' sconcertato, ho l'età per essere sconcertato e anche un pochino avvilito, sinceramente. Sì. Vorrei che questo paese ritrovasse la serenità, certo attraverso un percorso di purificazione e di prudenza come questo, però vorrei che anche attraverso il calcio dessimo un'immagine più rilassata, più serena, più civile, più contemporanea di questo paese. Sì, ferme restando le sacrosante emergenze che ci sono, Marino, ha la sensazione sgradevole che di fronte a queste cose, in alcune situazioni, in alcuni interpreti, si tenda a buttarle in politica o in vacca, che poi è la stessa cosa. Perché, scusa, quante persone sono state infettate dai 2000 tifosi milanisti che sono andati a Firenze l'altro giorno? Quanti ne sarebbero infettati fra gli spettatori che vedono Inter, Juve e Juve-Inter? Lo so, sono domande, come dici adesso, populiste e forse anche un po' superficiali. Mi chiedo anche, con un po' di cinismo, quante persone sono morte di influenza o cosa limitrofe lo scorso anno nello stesso periodo e non per questo si sono fermati i trasporti, le chiese, le scuole, i supermercati e non per questo il paese corre il rischio di una bancarotta la cui onda lunga si potrebbe venire a vedere già di qui a pochissimo, quando cominceranno a essere prima fatte e poi disdette le prenotazioni del turismo. Noi viviamo anche di turismo. Già cominciato. Come già noi cominciato, guarderemo loro a parti invertite. Allora, vi faccio sentire cosa ha detto Gravina, presidente della Federcalcio, a questo proposito. La Serie A deve andare avanti, il calcio italiano deve andare avanti, lo deve fare nel rispetto delle ordinanze, lo deve fare nel rispetto di cosciente e responsabile, che in questo momento delicato non può il calcio comunque essere causa di ulteriori aggravamenti di situazioni, ma noi dobbiamo vivere questo sport con la spensieratezza che è proprio di questo sport, ma lo dobbiamo fare in un clima che ci consente di poterlo fare. Quindi se è possibile col pubblico noi saremo sicuramente felici. Dove questo non è possibile, cercheremo comunque di rispettare il calendario. Leo, tu sai che questa è la Gravina, tu sai che noi, da campioni universali di polemica, la butteremo ovviamente non in vacca ma in polemica, che poi più o meno è la stessa cosa, perché c'è chi dice adesso ne chiudono alcuni e degli altri non li chiudono e da qualche parte si gioca e da altre parti non si gioca, e come la mettiamo? No, beh, io penso, guarda, una cosa molto semplice: quando ci sono situazioni come queste è opportuno, anche se banale dirlo, mantenere la calma, la razionalità, evitare appunto le interpretazioni malevole di ogni genere. Credo che nelle emergenze ci sia un'esigenza, che è quella di stare uniti. Io personalmente amo il calcio, il pallone, come tutti sarei felicissimo se Juventus Inter si potesse giocare con uno stadio pieno. Se non si può fare per delle altre motivazioni che vanno rispettate, può essere benissimo una partita stupenda anche senza pubblico. Tra l'altro, qui devo dire una cosa che riaffiora dai miei ricordi antichissimi, all'epoca per ragioni diverse che riguardavano una squalifica, ma la prima squadra che giocò una partita a porte chiuse, importante, in Italia, fu la Juventus di Platini e Trapattoni, un ottavo di finale di Coppa dei Campioni contro il Verona Torino. Sì, ricordo bene. Quindi voglio dire, ovviamente per ragioni che non sono paragonabili a quelle di oggi, è successo, può capitare, e cerchiamo di goderci in qualunque forma venga proposto domenica prossima lo spettacolo, e sfortunati raccattapalle che avranno diritto di essere vicini a Lukaku e a Cristiano Ronaldo, però ripeto, anche per le cose che ho detto all'inizio, insomma, qui ci sono delle priorità diverse che vanno tutelate, sperando che si risolva tutto, ci mancherebbe altro, ma siamo in presenza di una realtà molto molto delicata e senza precedenti per il nostro paese, è la verità, quindi occorre prenderne atto. Poi io sono convinto di una cosa, che per i professionisti del pallone, i giocatori, poi in realtà quando scendono in campo e l'arbitro fischia, avere attorno 40.000 persone che fanno casino o non avercele non gli sposta mica niente, cioè Cristiano Ronaldo rimane un fuoriclasse assoluto anche se gioca da solo, sì, passati magari i primi 5 minuti in cui ti sembra di fare la amichevole del mercoledì, dici, pensi ad altre cose. Poi dopo, sai, semmai è diverso, questo è un discorso che io e Marino potremmo affrontare avendo quasi 100 anni. È diverso chiedersi, ma invece sulla psicologia dell'atleta, no? Sai il famoso discorso, il fattore campo, conta, non conta, potrà incidere il fatto di non avere la gente attorno, il sostegno, il calore, il colore, il rumore? Questo è un bellissimo interrogativo. Detta tutta questa premessa, però voglio dire una cosa, caro gente, perché noi siamo una categoria, quella dei giornalisti, anche di invidiosi, di rancorosi, ma vogliamo dire che ieri con Andrea Agnelli hai fatto una cosa straordinaria. Beh, ma la ringrazio. No, è stato... Ma io lo voglio dire qui, è vero Marino, no? Io e Marino facciamo una cosa del genere con Vittorio Pozzo a Leier nel 1937, no? E tu sei riuscito con il presidente della Juventus, no, 75 anni dopo. Insomma, non sembra, perché chi ti ascolta con noi dice, ma questo è un babbeo, invece voglio dire, no, beh, lo sono. Veramente bravo. No, ma lo sono, io sono fiero della mia patente. Voglio completare il discorso a nome anche di Marino, non ci paghi, ma sei bravo. Fai lavorare grande, più che altro. Marino Bartoletti, che è il più grande tale scout esistente, converrà sul fatto che se il giorno tu vai fare il presidente della Juventus, la radio la facciamo fare, perché è la prima volta che faceva radio ieri presidente della Juventus, se l'è cavata bene, anche una bella voce. Ma io ricordo quando io e Leo intervistammo Pozzo, i social si scatenarono, devo dire, nel bene e nel male. E purtroppo le cose non sono cambiate in questo paese, dove il calcio andrebbe vissuto con un po' più di serenità e di rispetto per, ma il quando che mai facendo, chi è quel signore, diceva, ma quando mai. Senti, allora facciamo così, ho il traffico e poi vi rovino la vita almeno per i prossimi 10 minuti, ricordandovi che i primi vagiti dei nostri motori non sono particolarmente promettenti. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. A parte che per un nostalgico come per nostalgici come noi, Messi nello stadio di Maradona è una gran bella cartolina, no? Che spediremo volentieri questa sera. Vogliamo fare i complimenti ai tifosi del Napoli che sono comportati in maniera impeccabile. Assolutamente. Io non so se hanno captazio o benevolenza, però devo dire che l'accoglienza che gli è stata fatta, credo che Messi non l'abbia mai ricevuto da un pubblico rivale. Lo dicevamo in apertura, abbiamo fatti anche sentire, vabbè, ma io sono fra quelli che dice che dobbiamo tifare sempre per le squadre italiane. So che è un'affermazione molto divisiva, però la riconfermerò fino all'ultimo respiro. E quindi stasera tifiamo Napoli, poi tiferemo Atalanta, anzi ho sentito Giampiero Gasperini e poi poi ti faremo Juventus, perché il calcio italiano ci deve rappresentare a quei livelli. Ben vengano le attestazioni di stima nei confronti dei grandi avversari e in bocca al lupo al Napoli, perché stasera siamo tutti napoletani, poi diventeremo tutti bergamaschi, poi diventeremo tutti juventini. Su quest'ultima affermazione avrei, devo fare della retorica, avrei della, però per me è così. No, ma no, no, ma no, anche per me, anche per me, ma non per tutti, come ben sai. Piuttosto c'è un ascoltatore che mi scrive via WhatsApp: per favore chiedete a Turrini qualcosa della Ferrari, così il mandante non sono io, ma è un gentile ascoltatore che non si firma. Allora la settimana scorsa, dopo che ci eravamo sentiti per il Bar Tour, i primi test non sono andati bene, nel senso che questi maledetti della Mercedes si sono addirittura permessi di tirare fuori il volante flessibile, no? Su e giù, queste robe che a me evocano anche ricordi ormai rimossi, perché sono troppo anziano. E quindi cosa vuoi mai? Hai anche avuto la sensazione che, oltre a essere campioni in carica da tempo immemorabile, siano anche più avanti di tutti sul terreno dell'innovazione tecnologica. Ecco, dopodiché la Ferrari vista la settimana scorsa in Catalogna non era competitiva, nel senso che la macchina ha avuto dei problemi, si è anche fermato Vettel per un guaio a un motore. Per fortuna poi, tornati a casa, hanno capito che non si trattava di un difetto strutturale, ma semplicemente di un guasto al circuito della lubrificazione. Però questi test che iniziano domani sono particolarmente importanti, perché qui la Ferrari deve tirare fuori il potenziale della SF1000, o quantomeno capire a che livello si trova rispetto alla Freccia d'Argento e alla Red Bull. Teniamo anche presente che altra occasione non c'è, perché poi dopo si viene a casa dalla Spagna, si impacchetta tutto e si va a Melbourne. Io credo che il quadro non sia così catastrofico come è apparso la settimana scorsa, ma è fuori discussione che Hamilton e la Mercedes siano ancora in vantaggio. Ecco, questo con sai, il volante. Sai che gioia! Meno, mamma mia, che gioia! Che... Cosa ti devo dire? Qui fra Hamilton cosa mi devi dire? Che anche basta, cioè si inventano il giocattolo del volante che si muove, che ce l'avevo da bambino, l'attaccare al cruscotto della macchina. Io non più, però voglio dire, effettivamente anche questa dispiace ammetterlo, però onore al merito. Poi vedremo come funziona sulla vettura, se assicura dei vantaggi o meno, ma è la dimostrazione che non sono ma questo pagati, cioè, se avevamo tutto, se non servivano altre prove, questo che però io mi sono anche stufato di dire: guardo le partite di rugby, devo dire gli altri che bravi, noi prendiamo sempre gli schiaffi e rimaniamo sempre lì, ed è una cosa che a me non investe. Siccome ti vedo bello carico, e poi abbiamo capito ieri che sei in intimi rapporti con Andrea Mielli, io ti do il cellulare di Binotto, lo chiami e lo metti in riga, Ma volentieri. Tutti i fenomeni alla radio, dire, io no, ma io mando avanti Marino. Mando avanti Marino. Ma io e Marino lo chiamiamo quando vogliamo, Binotto. Ma tu, caro Genta, che sei una star. No, vabbè, chiami. Ma cosa devo dire? Vuoi il numero di Camilleri, amministratore delegato, ti do anche quello. Prima cifra del cellulare è un 3, poi se vuoi vado avanti. Lascia stare. Marino. Chiamiamo il numero di Leclerc e dire chiamarlo e dirgli siamo nelle tue mani. Pensa che quando io avevo il volante che vibrava nella Ritmo andai dal meccanico, pensa cosa avevo capito. No, quello che dicevo, bravi gli altri, però insomma i primi vagiti dei motori italiani, ci metto anche quelli su due ruote, non sono esattamente una sinfonia. Sai, per motori italiani su due ruote alludi naturalmente all'altra rossa, e anche lì chiaramente dobbiamo fare una grande professione di ottimismo, perché nel caso della Ferrari, me la sono cavata con una battuta, siamo soprattutto nelle mani dei piloti, di un pilota in particolare, alla sua creatività, alla sua freschezza, alla sua fame, alla sua voglia di vincere. Sarebbe bello se questo pilota avesse qualcosa fra le mani. Nel caso della Ducati, spero che le motivazioni dei nostri piloti continuino a reggere, perché lì diventa ancora più difficile, e non so se la fame riesca a sopravvivere davanti al dominio che gli altri purtroppo ci stanno apparecchiando da tanti anni. Ti ripeto, facciamo professione di ottimismo, dai, il balcone di Piazza Safi a Forlì è sempre libero per eventuali festeggiamenti, come sono liberi idealmente tutti i balconi italiani. E speriamo che quest'anno almeno sia un anno di semina importante per avere un raccolto nell'anno successivo, almeno quello. Ma gli anni passano. Gli anni passano, so, figurati per me e per Leo che siamo verso i 121. Tu sei giovane, mi chiedo per l'altro, dopo aver invitato Agnelli, chi inviti la prossima settimana? No, ma io sto bene con voi, ragazzi, non avete capito. La prossima settimana ve lo dico io, gente avrà il telefono Barack Obama. Veramente. Lui, ecco. Arriva Obama, ha... tutti convocati a dire yes, gente can. Ti ha avvertito lui? Te l'ha detto lui? Tutto è possibile per Zeta, però ricordati, come abbiamo detto prima, io e Mario Bartoletti, oltre a quella roba famosa con Vittorio Pozzo, facemmo una volta un talk show con Fausto Coppi, che tra quei livelli non ci sei ancora arrivato. No, ma non ci arrivo mai. Memorabile. All'epoca, anche all'epoca, i social scatenati, e quando io e Marino chiedevamo a Coppi, ma allora, frate Bartoli, qui l'hai capito? Senti, sono curioso di scoprire se domenica sera, pubblico o non pubblico, sarà ancora così pimpante. Oddio, adesso tu hai un pronostico, io chiaramente devo seguire la competenza. Travisi le mie domande. Non c'è partita, credo che vincerà la vecchia signora anche nel vuoto, anche nel deserto. Noi interisti andiamo lì come sparring partner, hai capito? Ci presentiamo, potremmo anche così a sorpresa, chi lo sa, no? Rumble in the Jungle, a lì doveva prendere una serie di randellate da Foreman, là, Kinshasa e così via, e poi è finita diversamente. E io e Marino eravamo a Kinshasa, voglio dire, c'eravamo con il dittatore Seseke Mobutu, che ci disse, volete un'intervista? E dicevo, no, perché tanto poi gente intervista Andrea Agnelli e ci fotte perché si parlerà solo di quella, hai capito? Quindi è anche questo sulla coscienza. Mette le mani avanti, Marino, sarà già capito. Guarda, domenica, pubblico o non pubblico, comincia il campionato della Juventus e dell'Inter. Sì, e della Lazio? La Lazio credo che debba essere guardata con grande ammirazione per tutto quello che sta facendo. Tante volte al Palio di Siena vince il cavallo di rincorsa, questo è un bel cavallino, molto bel cavallino. E poi la testa libera dai mercoledì, dai martedì, dai giovedì, giorni in cui soprattutto Sarri non può preparare quello che vorrebbe fare nel weekend, Inzaghi lo può fare. Grazie ragazzi, grazie davvero. Marino Bartoletti, Leo Turrini, ovviamente Edoardo Lavezzari, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.